ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Avevo curato una nonna, una vecchia contadina di 75 anni, Maria Rosano, dagli occhi azzurri chiari, nel viso pieno di bontà. Aveva una malattia di cuore, dai sintomi gravi e preoccupanti, e si sentiva molto male. «Non mi alzerò più da questo letto, dottore. È arrivata la mia ora», mi diceva. Ma io, che mi sentivo aiutato dalla fortuna, l'assicuravo del contrario. Un giorno, per farle coraggio, le dissi: «Guarirai, sta sicura. Da questo letto scenderai senza bisogno di aiuto. Tra un mese starai bene e verrai da sola fino a casa mia in fondo al paese a salutarmi». La vecchia si rimise davvero in salute e, dopo un mese, sentì battere alla mia porta. Era Maria, che si era ricordata delle mie parole e veniva a ringraziarmi e a benedirmi, con le braccia cariche di regali, fichi secchi e salami e focacce dolci fatte con le sue mani. Era una donna molto simpatica, piena di buon senso e di tenerezza materna, saggia nel parlare e con un certo ottimismo paziente e comprensivo nell'antica faccia rugosa. Io la ringraziai dei suoi doni e la trattenni a conversare, ma mi accorgevo che la contadina stava sempre più a disagio, ritta ora su un piede, ora sull'altro, e lanciava delle occhiate alla porta come se volesse scappare e non osasse. Da principio non ne capivo la ragione. Poi mi avvidi che la vecchia era entrata da me da sola, a differenza di tutte le altre donne che venivano a farsi visitare o a chiamarmi e che arrivavano sempre in due o almeno accompagnate da una bambina, che è un modo di rispettare il costume e di ridurlo insieme a poco più di un simbolo. E sospettai che fosse questa la ragione della sua inquietudine. Lei stessa me lo confermò. Mi considerava il suo benefattore, il suo salvatore miracoloso. Si sarebbe buttata nel fuoco per me. Non avevo soltanto guarito lei, che aveva un piede nella fossa, ma anche la sua nipotina prediletta, malata di una brutta polmonite. Le avevo detto di venire da sola a trovarmi quando fosse stata bene. Io intendevo che non avrebbe avuto bisogno di nessuno per darle il braccio, ma la buona vecchia aveva preso la cosa alla lettera e non aveva osato infrangere il mio ordine. Perciò non si era fatta accompagnare. Aveva fatto per me davvero un grosso sacrificio e ora era inquieta perché essere con me, a malgrado dell'evidente innocenza, era tuttavia di per sé una grossa infrazione al costume. Mi misi a ridere. E anche lei rise, ma mi disse che l'uso era più vecchio di lei e di me, e se ne andò contenta. Non c'è abitudine o regola o legge che resista a una contraria necessità o a un potente desiderio. E anche quest'uso si riduce praticamente a una formalità. Ma la formalità è rispettata. Tuttavia la campagna è grande, i casi della vita molteplici e non mancano le vecchie mezzane accompagnatrici né le giovani compiacenti. Le donne chiuse nei veli, sono come animali selvatici. Non pensano che all'amore fisico, con estrema naturalezza, e ne parlano con una libertà e semplicità di linguaggio che stupisce. Quando passi per la via, ti guardano con i neri occhi scrutatori, chinati obliquamente a pesare la tua virilità. E le odi poi, dietro le tue spalle, mormorare i loro giudizi e le lodi della tua nascosta bellezza. Se ti volti, celano il viso tra le mani e ti guardano attraverso le dita. Nessun sentimento si accompagna a questa atmosfera di desiderio, che esce dagli occhi e pare riempire l'aria del paese, se non forse quello della soggezione a un destino, a una potenza superiore che non si può eludere. Anche l'amore si accompagna più che all'entusiasmo, alla speranza, a una sorta di rassegnazione. Se l'occasione è fuggevole, non bisogna lasciarla svanire. Le intese sono rapide e senza parole. Quello che si racconta, che io stesso credevo vero, della severità feroce dei costumi, della gelosia turchesca, del selvaggio senso dell'onore familiare che porta ai delitti e alle vendette, non è che leggenda quaggiù. Forse era realtà, in un tempo non molto lontano, e ne resta un residuo nella rigidezza dei formalismi. Ma l'immigrazione ha cambiato tutto. Gli uomini mancano e il paese appartiene alle donne. Una buona parte delle spose hanno il marito in America. Quello scrive il primo anno, scrive ancora il secondo. Poi non se ne sa più nulla. Forse si fa un'altra famiglia laggiù. Certo, scompare per sempre e non torna più. La moglie lo aspetta il primo anno, lo aspetta il secondo. Poi si presenta un'occasione e nasce un bambino. Gran parte dei figli sono illegittimi. L'autorità delle madri è sovrana. Gagliano ha 1200 abitanti. In America ci sono 2000 gaglianesi. Grassano ne ha 5000 e un numero quasi uguale di grassanesi sono negli Stati Uniti. In paese ci restano molte più donne che uomini. Chi siano i padri non può più avere un'importanza così gelosa. Il sentimento d'onore si disgiunge da quello di paternità. Il regime è matriarcale. Nelle ore del giorno, che i contadini sono lontani, il paese è abbandonato alle donne. Queste regine uccelli che regnano sulla turba brulicante dei figli. I bambini sono amati, adorati, vezzeggiati dalle madri che trepidano per i loro mali, che li allattano per anni e anni, non li lasciano un minuto, li portano con sé sulla schiena e sulle braccia, avvolti negli scialli neri, mentre ritte con l'anfora in testa vengono dalla fontana. Molti ne muoiono. Gli altri crescono precoci. Poi prendono la malaria, si fanno gialli e melanconici e diventano uomini e vanno alla guerra o in America. O restano in paese a curvare la schiena come bestie sotto il sole ogni giorno dell'anno. Se i figli illegittimi non sono una reale vergogna per le donne, tantomeno lo sono naturalmente per gli uomini. I preti hanno quasi tutti dei figli e nessuno trova che la cosa porti disdoro al loro sacerdozio. Se Dio non li riprende da piccoli, li fanno allevare nei collegi di Potenza o di Melfi. Il portalettere di Grassano, un vecchietto arzillo, un po' zoppicante, con un bel paio di baffi tirati in su, era celebre e onorato in paese perché si diceva che avesse come Priamo 50 figli. Di questi, 22-23 erano i figli delle sue due o tre mogli. Gli altri, sparsi per il paese per le terre vicine, e forse in parte leggendari, gli erano attribuiti, ma egli non se ne curava e di molti non conosceva l'esistenza. Lo chiamavano un re, non so se per la regalità del suo potere virile o per i baffi monarchici. E i suoi figli erano detti in paese i principini. Il prevalente rapporto matriarcale, il modo naturale e animalesco dell'amore, lo squilibrio dovuto all'immigrazione devono tuttavia fare i conti con il residuo senso familiare, col sentimento fortissimo della consanguineità. e con gli antichi costumi che tendono a impedire il contatto degli uomini e delle donne. Avrebbero potuto entrare a casa mia per farmi servizi soltanto quelle donne che fossero in qualche modo esentate dal seguire la regola comune. Quelle che avessero avuto molti figli di padre incerto, che, senza poter essere chiamate prostitute, che tale mestiere non esiste in paese, facessero tuttavia mostra di una certa libertà di costumi e si dedicassero insieme alle cose dell'amore, alle pratiche magiche per procacciarlo. Le streghe. Di tali donne ce n'erano almeno una ventina a Gagliano, ma, mi disse donna Caterina, alcune erano troppo sporche e disordinate, altre incapaci di tenere civilmente la casa, altre avevano da badare a qualche loro terra, altre servivano già in casa dei signori del luogo. Una sola fa veramente per lei. È pulita, è onesta, sa far da mangiare e poi la casa dove lei va ad abitare è un po' come se fosse la sua. Ci ha vissuto molti anni col prete Buonanima fino alla sua morte. Mi decisi dunque a cercarla. Accettò di venire da me e fece il suo ingresso nella mia nuova casa. Giulia Venere, detta Giulia la Sant'Arcangelese, perché era nata in quel paese bianco di là dall'Agri. Aveva 41 anni e aveva avuto, tra parti normali e aborti, 17 gravidanze da 15 padri diversi. Il primo figlio l'aveva fatto col marito al tempo della Grande Guerra. Poi l'uomo era partito per l'America, portando con sé il bambino, ed era scomparso in quel continente senza mai più dar notizia di sé. Gli altri figli erano venuti dopo. Due gemelli nati prima del termine erano del prete. Quasi tutti questi bambini erano morti da piccoli. Io non ne vidi mai altri che una ragazza di 12 anni, che lavorava in un paese vicino con una famiglia di pastori, e veniva ogni tanto a trovare la madre, una specie di piccola capra selvatica, nera, di occhi e di pelle, con i neri capelli scarruffati e spioventi sul viso, che stava in un silenzio astioso e diffidente. E non rispondeva alle domande, pronta a fuggire appena si sentiva guardata. E l'ultimo nato, Nino, di 2 anni, un bambino grasso e robusto, che Giulia portava sempre con sé, sotto lo scialle, e di cui non ho mai saputo chi fosse il padre. Giulia era una donna alta e formosa, con un vitino sottile come quello di un'anfora, tra il petto e i fianchi robusti. Doveva aver avuto, nella sua gioventù, una specie di barbara e solenne bellezza. Il viso era ormai rugoso per gli anni e giallo per la malaria, ma restavano i segni dell'antica venustà della sua struttura severa, come nei muri di un tempio classico, che ha perso i marmi che l'adornano, ma conserva intatta la forma e le proporzioni. Sul grande corpo imponente, diritto, spirante una forza animalesca, si ergeva, coperta dal velo, una testa piccola, dall'ovale allungato. La fronte era alta e diritta, mezza coperta da una ciocca di capelli nerissimi, lisci e unti. Gli occhi, a mandorla, neri e opachi, avevano il bianco venato di azzurro e di bruno, come quelli dei cani. Il naso era lungo e sottile, un po' arcuato. La bocca larga, dalle labbra sottili e pallide, con una piega amara, si apriva per un riso cattivo, a mostrare due file di denti bianchissimi, potenti come quelli di un lupo. Questo viso aveva un fortissimo carattere arcaico, non nel senso del classico greco né del romano, ma di un'antichità più misteriosa e crudele. cresciuta sempre sulla stessa terra, senza rapporti e mistioni con gli uomini, ma legata alla zolla e alle eterne divinità animali. Vi si vedevano una fredda sensualità, una oscura ironia, una crudeltà naturale, una protervia impenetrabile e una passività piena di potenza, che si legavano in un'espressione insieme severa, intelligente e malvagia, nell'ondeggiare dei veli e della larga gonnella corta, nelle lunghe gambe robuste come tronchi d'albero. Quel grande corpo si muoveva con gesti lenti, equilibrati, pieni di una forza armonica, e portava, erta e fiera, su quella base monumentale materna, la piccola, nera testa di serpente. Entrò nella mia casa volentieri, come una regina che ritorni dopo un'assenza a visitare una delle sue province predilette. C'era stata tanti anni, ci aveva avuto dei figli, aveva regnato sulla cucina e sul letto del prete, che le aveva regalato quegli anelli d'oro che le pendevano dalle orecchie. Ne conosceva tutti i segreti. Il camino che tirava male, la finestra che non chiudeva, i chiodi piantati nei muri. Allora la casa era piena di mobili, di provviste, di bottiglie, di conserve e di ogni ben di Dio. Ora era vuota. C'era soltanto un letto, poche sedie, un tavolo di cucina. Non c'era la stufa. Il mangiare doveva essere cotto al fuoco del camino. Ma Giulia sapeva dove procurarsi il necessario. Dove trovare la legna e il carbone, da chi farsi prestare una botte per l'acqua, in attesa che qualche mercante ambulante arrivasse a venderne in paese. Giulia conosceva tutti e sapeva tutto. Le case di Gagliano non avevano segreti per lei, e i fatti di ciascuno e i particolari più intimi della vita di ogni donna e di ogni uomo e i loro sentimenti e i motivi più nascosti. Era una donna antichissima, come se avesse avuto centinaia d'anni e nulla perciò le potesse esser celato. La sua sapienza non era quella bonaria e proverbiale delle vecchie, legata a una tradizione impersonale, né quella pettegola di una faccendiera, ma una specie di fredda consapevolezza passiva, dove la vita si specchiava senza pietà e senza giudizio morale, né compatimento, né biasimo apparivano mai nel suo ambiguo sorriso. Era come le bestie, uno spirito della terra. Non aveva paura del tempo, né della fatica, né degli uomini. Sapeva portare senza sforzo, come tutte le donne di qui, che fanno invece degli uomini i lavori pesanti, i più gravi pesi. Andava alla fontana con la botte da 30 litri e la riportava piena sul capo senza reggerla con le mani, occupate a tenere il bambino, inerpicandosi sui sassi della strada ripida con l'equilibrio diabolico di una capra. Faceva il fuoco alla maniera paesana, che si adopera poca legna, con i ceppi accesi da un capo e avvicinati man mano che si consumano. Su quel fuoco cuoceva con le scarse risorse del paese, dei piatti saporiti. Le teste delle capre le preparava a reganate, in una pentola di coccio, con le braccia sotto e sopra il coperchio, dopo aver intriso il cervello con un uovo e delle erbe profumate. Delle budella faceva i gnemorielli, arrotolandole come gomitoli di filo attorno a un pezzo di fegato, di grasso e a una foglia d'alloro, e mettendole ad abbrustolire sulla fiamma, infilate a uno spiedo. L'odore di carne bruciata e il fumo grigio si spandevano per la casa e per la via, annunciatori di una barbara delizia. Nella cucina più misteriosa dei filtri, Giulia era maestra. Le ragazze ricorrevano a lei per consiglio, per preparare i loro intrugli amorosi. Conosceva le erbe e il potere degli oggetti magici, sapeva curare le malattie con gli incantesimi e persino poteva far morire chi volesse con la sola virtù di terribili formule. Giulia aveva una casa sua, non lontana dalla mia, più in basso, verso il timbone della Madonna degli Angeli. Ci dormiva la notte con il suo ultimo amante, il barbiere. Un giovanotto albino dagli occhi rossi di coniglio. Batteva al mio uscio la mattina presto con il suo bambino, andava a prendere l'acqua, preparava il fuoco e il pranzo e se ne ripartiva nel pomeriggio. La sera dovevo cuocermi la cena da solo. Giulia andava, veniva, ricompariva a suo piacere, ma non aveva aria da padrona di casa. Aveva capito subito che i tempi non erano più quelli di una volta e che io ero un tutt'altro cristiano che il suo antico prete, forse più misterioso a lei di quello che lei potesse essere per me. Mi supponeva un grande potere ed era contenta di questo nella sua passività. Fredda, impassibile e animalesca, la strega contadina era una serva fedele. Così finì il primo periodo del mio soggiorno gaglianese, passato a Gagliano di Sopra, nella casa della vedova. Contento della nuova solitudine, stavo sdraiato sulla mia terrazza e guardavo l'ombra delle nuvole muoversi sulle crete lontane come una nave sul mare. Udivo dalle stanze di sotto il rumore dei passi di Giulia e l'abbaiare del cane. Questi due strani esseri, la strega e Barone, furono da allora i compagni abituali della mia vita.